Ascolta ruscello che sgorga lassù ed umile a valle scompar e guarda l'argento del fiume che sereno e sicuro va. Osserva dell'alba il primo vaglio che annuncia la fiamma del sol. Ciò che nasce puro più grande viva e vince l'oscurità. La tenebra fugge i raggi del sol, il Dio da gioia e calore. Nel cuor la speranza non morirà, il domani appartiene, il domani appartiene, il domani appartiene a noi. Ascolta il mio canto che sale nel cielo, verso l'immensità, unisci il tuo grido di libertà, comincia uomo a lottare. Distrutta nell'ombra sapremo starà, se uniti noi marceremo, l'usura ed il pugno. Il domani appartiene, il domani appartiene a noi. Pianura, la strada era lunga da qui all'aldilà, ma un urlo di gioia esplodeva al tuo arrivo, fratelli abbracciavi per l'eternità.